L'appuntamento è per le 8:30 in Piazza Maggiore, la piazza, diciamo, delle scioperanti e degli scioperanti proseguirà poi fino alle 13 e sarà costellata da varie attività. L'attività principale sarà quella del microfono aperto, come abbiamo fatto negli anni scorsi. E la particolarità di quest'anno è che trasmetteremo o leggeremo durante il microfono aperto anche i messaggi di chi effettivamente non può scioperare in senso classico la mattina dell'8 marzo. Le altre attività che ci saranno rispecchiano in parte i numerosi aspetti anche del piano femminista contro la violenza maschile di genere, di non una di meno. In particolare ci sarà un gazebo animato da insegnanti e studenti e studentesse. Si chiama il gazebo della scuola di genere, nel quale appunto le attiviste e gli attivisti del mondo della scuola, di non una di meno, cercheranno appunto di spiegare come la scuola non sia solo un luogo di effettivamente di riproduzione, di perpetuazione degli stereotipi di genere, degli stereotipi razzisti, anche dell'omo, lesbo, transfobia, ma possa essere anche appunto un luogo di resistenza e di sviluppo di una cultura differente. Ci saranno poi due dimostrazioni, diciamo, di attività fisiche libere, di Muay Thai da un lato e di yoga dall'altro. Ci sarà inoltre un laboratorio di hackeraggio delle app di incontro, nel quale appunto si spiegherà come fare un uso politico in occasione dell'8 marzo delle app di incontro, e che verranno utilizzate appunto per dare appuntamento, per dare degli appuntamenti nella piazza della mattina e al corteo del pomeriggio. Invece appunto il corteo del pomeriggio, che poi non partirà da Piazza Maggiore ma da Piazza 20 Settembre. Esatto, quest'anno abbiamo scelto di invertire il percorso anche per spezzare un po' la ritualità degli ultimi 2 anni. Partiremo da Piazza 20 Settembre, il percorso sarà la prima parte di Via Indipendenza, Via dei Mille, Via Marconi, Via Ugo Bassi, per poi ritornare in Piazza Maggiore, dove ci fermeremo un po' e ci saranno anche degli interventi musicali, oltre che gli interventi politici appunto di conclusione della giornata, anche in connessione con le piazze, le altre piazze, diciamo, non solo italiane ma anche le piazze internazionali. Si è rimarcato più volte come lo sciopero femminista dell'8 marzo sia uno sciopero globale e transnazionale. Intanto dove avrà luogo, poi appunto che cosa comporta questo livello anche globale dello sciopero? La mappatura degli eventi legati allo sciopero femminista globale è in continuo aggiornamento. Per ora sono stati censiti circa 50 paesi nel mondo, che vanno, diciamo, da quasi tutti i paesi dell'America Latina per arrivare a diversi paesi del sud-est asiatico e anche della Cina, moltissimi paesi europei, alcuni paesi africani. Invece proprio sul tema dello sciopero, nel senso che è uno sciopero su vari livelli, ora abbiamo già visto un po' quello produttivo, però c'è anche un altro livello, che è quello dello sciopero riproduttivo e dello sciopero di riproduzione dei generi. Ti chiederei di spiegarci un po' di più queste due parti. Sì, quello che è appunto lo sciopero globale femminista in tutte le sue articolazioni dice è che le attività che saranno interrotte durante la giornata dello sciopero dell'8 marzo sono tutte le attività lavorative, quindi comprese anche quelle non retribuite, tutte le attività, diciamo, del lavoro domestico, del lavoro di cura, quindi interruzione di queste attività ma anche interruzione della riproduzione della, diciamo, divisione binaria tra i generi, tra uomini e donne, ai quali vengono assegnati ruoli sociali differenti e che in questo senso sono anche una delle radici e sono alla base della violenza maschile, proprio questa divisione rigida e binaria tra i generi. Invece ora ti chiederei un commento a una notizia, diciamo, di cronaca, che è quella della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha ridotto la pena, ha dato delle attenuanti all'autore di un femminicidio. Sulla base, si è visto molto nei titoli di giornali, di una tempesta emotiva e passionale. Quello che, insomma, noi diciamo come non una di meno è che questo caso appunto è un caso, diciamo, diciamo, esemplare dal punto di vista di come le varie culture istituzionali concorrono a perpetuare, a legittimare e quindi a riprodurre la violenza maschile di genere, nel senso che in questo caso è evidente come appunto l'uso della psichiatria nei tribunali, le motivazioni addotte dai giudici concorrono appunto a costruire la questione della violenza maschile come un fatto emergenziale, come un fatto eccezionale legato a dei raptus, legato alla follia, alla gelosia, all'istinto del possesso, appunto descritto come una sorta di istinto. Quello che noi diciamo invece da sempre è che la violenza maschile è strutturale e quindi da questo punto di vista è un caso esemplare, ma non è un caso eccezionale, proprio perché nel 2017 e nel 2018 ci sono stati più di 100 femminicidi in Italia, cioè di donne uccise per mano dai partner, degli ex partner o da familiari uomini maschi, e nel mondo sono 87.000 secondo una ricerca delle Nazioni Unite le donne che sono state uccise in questo modo. Quindi ci vediamo l'8 marzo in Piazza Maggiore dalle 8:30 alle 13, poi alle 13:30 ci sarà un pranzo sociale femminista in Piazza Verdi, appunto per mettere in pratica la socializzazione anche del lavoro, diciamo così, del lavoro domestico, di farlo, di svolgerlo nello spazio pubblico, e poi ci rivedremo per il grande corteo della sera dalle ore 17, Piazza 20 Settembre, per poi attraverso alcune tappe comunicative ritornare in Piazza Maggiore e concludere questa grande giornata di lotta.